Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I dubbi sul piano di salvataggio e le preoccupazioni per il referendum indetto dalla Grecia per approvare il nuovo accordo sulla riduzione del debito e il martedì nero per i mercati di tutto il vecchio continente. Questi temi al centro della cronaca economico-finanziaria di questa puntata di Economia in Europa. La settimana si è aperta sull'onda delle reazioni agli accordi sul piano di salvataggio della zona euro di giovedì 27 ottobre e per quanto riguarda l'Italia la lettera con gli impegni per rilanciare la crescita del paese inviata alle istituzioni europee. Proprio intorno a questi obiettivi restano molti dubbi sull'effettiva possibilità di raggiungerli e sull'adeguatezza dei tempi stabiliti per farlo. Ad aumentare l'incertezza ha contribuito anche l'apertura della settimana dei mercati che già da lunedì hanno iniziato a punire l'Italia. Sentiamo l'analisi di Piercarlo Padoan, vice segretario generale e capo economista dell'OCSE, intervistato lunedì da Sebastiano Barisoni. Il mercato è un po' di tempo che quando ci sono annunci di misure di politica economica in un primo momento diventa euforico, le cose vanno bene. Poi appena il mercato dà un'occhiata più a fondo su quello che effettivamente i governi o le istituzioni internazionali si apprestano a fare, ritorna scettico. E questo è il caso. I mercati all'annuncio delle misure prese a Bruxelles qualche giorno fa inizialmente hanno risposto molto bene. Poi hanno visto che dietro alle misure annunciate dai leader europei in realtà c'è ancora molto da fare, non c'è chiarezza sui dettagli, non c'è chiarezza sulle cifre, sono tornati ad essere pessimisti. Quindi è una questione di credibilità. Questo ragionamento evidentemente è ancora più forte nel caso dell'Italia. Il governo italiano ha presentato a Bruxelles una lettera piena di misure, di proposte di misure che sulla carta sono molto importanti. Evidentemente i mercati si chiedono se queste misure saranno effettivamente prese nei tempi e nei modi che vengono descritti. Il tempo è un tempo ragionevole se si prendono misure che iniziano questi processi, che naturalmente prima di dare frutti definitivi richiedono più tempo, ma almeno che si avviino le misure legislative e amministrative là dove servono per mettere in pratica quello che si è annunciato. Quindi bisogna almeno cominciare a dire che la nave è partita e dare un'indicazione precisa della direzione. Poi se è partita prima o poi arriverà. Bisognerebbe prendere misure amministrative là dove non è richiesta una nuova legislazione. Da qualche mese il clima in Italia è cambiato, non è che sia cambiato granché nella situazione oggettiva per così dire, ma la percezione e il giudizio che i mercati danno della situazione italiana è cambiata perché il mondo è di nuovo in una fase di forte debolezza e quindi in questa fase i paesi a bassa crescita ad alto debito come il nostro sono quelli più esposti, quindi i mercati si chiedono: è cambiato il mondo, l'Italia non è cambiata, cosa succederà? È stato un primo novembre da dimenticare per i mercati. Il primo ministro greco, Papandreou, ha annunciato l'organizzazione di un referendum nel paese per approvare il nuovo accordo sulla riduzione del debito ellenico raggiunto la scorsa settimana nel vertice dell'Eurogruppo. E la scelta di affidarsi alla volontà del popolo greco ha gettato nell'agitazione i mercati azionari ed obbligazionari. Sentiamo l'analisi di Corrado Caironi, investment strategist di ricercafinanza.it. Una notizia di questo tipo nel quale c'è evidente un chiaro disimpegno da parte della politica greca che non è più in grado di gestire probabilmente i dissidi interni e che a questo punto mette nelle mani del popolo una decisione che riguarda gli aiuti, la vedo molto molto molto brutta, molto difficile da digerire, soprattutto a due giorni da questo incontro importante dove doveva essere descritto in maniera molto molto dettagliata il processo con il quale si usciva da una situazione di crisi che quest'estate è stata difficilissima. Quindi il percorso che doveva vedere l'haircut, quindi il taglio sul debito greco del 50%, davanti a questo il rafforzamento patrimoniale del Fondo Salva Stati e la ricapitalizzazione del sistema bancario, viene assolutamente sconvolta da questa decisione politica che mette nelle mani del popolo greco in pratica un referendum sul rimanere o meno nell'unione monetaria, perché alla fine il mercato è molto preoccupato di questa situazione. La notizia del referendum greco ha creato l'allarme sui mercati europei perché di fatto si presenta come la possibilità dell'uscita del paese dall'unione monetaria. E negli ultimi mesi sono sempre di più le voci scettiche sul successo della costruzione di un'unione monetaria che oggi sta vivendo una crisi pesantissima. Sentiamo la teoria di Bruno Amoroso, docente di economia internazionale presso l'Università di Roskilde in Danimarca. Al di là del nervosismo delle borse, diciamo, poi un nervosismo che in realtà non credo sia così solo reattivo, è anche un nervosismo calcolato, ma che cioè non potrebbe essere diversa, perché noi abbiamo avuto una serie di incontri, di vertici, sia dei paesi dell'Unione Europea, sia del gruppo Euro, che in realtà mi sembra sottovalutino totalmente quella che è la situazione. Questo vale soprattutto ovviamente per la Francia e per la Germania, in quanto la crisi dell'euro non si è risolta e non è stato proposto nulla, la si ignora con i richiami retorici che è meglio l'euro che del caos. La crisi delle banche, come giustamente anche lei richiamava, niente è stato fatto per separare le mele marce da quelle buone e quindi ristabilire un sistema del credito che fosse di aiuto all'economia reale. La crisi economica riguarda tutti i paesi, soprattutto della zona euro, appunto, perché i paesi della zona non euro, i paesi europei dell'Unione Europea hanno situazioni diverse e migliori. E poi infine la speculazione che è all'origine di questo fenomeno che è iniziato appunto dalla metà del decennio, questa speculazione non solo non è stata combattuta o limitata, ma si è rafforzata, perché è una speculazione finanziaria che sappiamo controlla il governo degli Stati Uniti, ma che oggi controlla anche il governo dell'economia europea attraverso la Banca Centrale Europea. Quindi abbiamo i gruppi speculatori, parlo della Goldman Sachs, che presiedono alle decisioni politiche più importanti sia degli Stati Uniti sia oggi della Banca Centrale Europea. Quindi aspettarsi una situazione diversa non mi pare, questo non è una sorpresa. Il problema è cosa bisogna fare per rimettere in moto economie ferme, che sono le economie soprattutto dei paesi euro, e come ristabilire un rapporto veramente di cooperazione economica tra questi paesi. Il 1 novembre è stato senza dubbio un martedì nero per i mercati europei. In Italia lo spread fra il BTP decennale e il Bund tedesco ha sfondato il muro dei 455 punti base, con il rendimento che è andato oltre il 6,3%. Piazza Affari ha chiuso con un calo del 6,8%, quarto peggior crollo di sempre per Piazza Affari, il più pesante dopo l'avvio della crisi subprime. A proposito della sfiducia sui mercati europei e delle conseguenze possibili per l'Italia, Sebastiano Barisoni ha intervistato Romano Prodi, ex presidente del Consiglio, ex presidente della Commissione europea, per fare il punto al termine di una giornata così critica sulla situazione economica dell'Unione e le tante variabili politiche che la condizionano. Sentiamo. Il principio generale è che di elezioni ferisce, di elezioni perisce. Cioè, qui ormai ognuno fa i suoi interessi, l'Europa è intergovernativa, ognuno guarda le elezioni di casa propria. Sulla Grecia si poteva risolvere tutto in un breve periodo di tempo, ma c'erano le elezioni nel North Rhine-Westphalia. Per queste elezioni il problema piccolo è diventato enorme. Ora la Grecia restituisce la stessa cosa, se si può dire questo, cioè Papandreou guarda ai suoi interessi e chiude il circolo che si era aperto con un favore identico fattogli dalla Germania. Se vogliamo poi andare più in particolare, non si poteva pretendere di più dalla Grecia, cioè la Grecia le ha fatti tutti i colori, ha falsato le cifre, ha diremmo truffato nel linguaggio popolare, no? E però le si è imposto dei vincoli che ha accettato, rispettato, poi degli altri vincoli ancora più forti, poi non si è dato il minimo di solidarietà e la si è lasciata morire poco a poco. Allora era meglio fare il default subito, se voi lo strozzate ad adagio. Quindi Papandreou, sentitosi alle corde, ha fatto come ogni politico fa, che pensa sempre e solo a breve, cioè ha fatto un guizzo in alto e ha detto referendum. Ma così veramente. Così mi blindo la maggioranza. Professor Prodi, su questo, scusi, lei dice come se uno si prendesse un raffreddore, non lo cura e poi diventa broncopolmonite. Esattamente. cioè per motivi elettorali della Merkel, del Land che lei citava, ma quindi era meglio farla fallire subito la Grecia a sto punto piuttosto che con questo accanimento terapeutico? Ma farla fallire secondo me non c'era proprio nessun bisogno per quello che ho detto prima. Ma certamente adesso cosa si è fatto? Che la Grecia è in situazioni identiche a quelle che sarebbero avvenute se la si strozzava prima, e in più la polmonite, che non era magari una polmonite ma era una malattia infettiva, si è sparsa a tutti gli altri. Questo è il vero problema, cioè non creda mica che il gioco di oggi fosse per la Grecia, no, chiaro. È partito per la Grecia, ma il gioco di oggi è sull'Italia e anche sulla Francia. Su questo possiamo dirlo che ha poco da ridere Sarkozy? Ma Sarkozy e la Merkel sono stati secondo me diabolici in questi mesi, perché rendendo l'Europa da un'Europa comunitaria in Europa intergovernativa, prendendosi loro il prevertice sempre, no? anche domani si incontrano prima di... Sì, beh, è una cosa ma ti si rende conto che ormai noi abbiamo accettato il prevertice, che detta tutto, poi un prevertice per modo di dire, perché è un prevertice in cui lui detta le regole, lei detta le regole e lui fa la conferenza stampa, insomma. Ma perché? È più Alfred e Mildred che Sarkozy Merkel, detta così. Ecco, va bene. Ma senta, perché Sarkozy tiene a questa blindatura? Da un lato per prestigio per la Francia, dall'altro lato attenzione, che deve farsi diverso dall'Italia e dalla Spagna, perché le sue banche stanno peggio delle nostre, ma molto peggio delle nostre, perché hanno titoli pubblici e hanno anche tutte le cartacce che hanno creato questa crisi, no? E mentre si teme per la salute dell'euro, in alcuni casi la preoccupazione arriva a far parlare addirittura del ritorno alle vecchie monete, per gli italiani sono gli ultimi mesi per cambiare le lire, che si potranno sostituire con il corrispettivo in euro solo fino al prossimo 28 febbraio. Si stima che ci siano ancora molte monete banconote in circolazione e per questo ProSolidar, il Fondo Nazionale del Settore del Credito per Progetti di Solidarietà, ha messo a punto un'iniziativa intitolata L'Ultima Lira, pensata per destinarli a finalità benefiche. Sentiamo Giancarlo Durante, vicepresidente di ProSolidar e direttore centrale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Ci sono ancora in circolazione circa 1 miliardo e 300 milioni di euro di banconote in lire. C'è tempo fino alla fine di febbraio 2012 per il cambio. Al ritmo attuale si prevede che entreranno negli sportelli della Banca d'Italia per il cambio circa 10 milioni di euro contro il 1.300.000.000, una somma molto lontana dal totale. L'idea che è venuta a ProSolidar, poi ci intratteremo magari un attimo su questo, è stata quella di lanciare una campagna per cercare di sollecitare il recupero di queste lire, come lei diceva, probabilmente dimenticate in qualche cassetto, per destinarle a iniziative umanitarie. E quindi si è messo insieme un gruppo di 5 partner che si occupano di solidarietà a tratto generale per lanciare 5 diversi progetti di solidarietà che vorremmo finanziare con questo tipo di raccolta. Basta mettere queste banconote in una busta intestata ProSolidar raccolta lire e portarle in uno dei 18.000 finora sportelli che hanno aderito all'iniziativa, sono sostanzialmente tutto il sistema bancario, gran parte del sistema bancario che ha già aderito e altre aziende stanno aderendo in queste ore, provvederà poi la singola azienda a raccogliere le buste che verranno poi convogliate in un unico punto di raccolta alla fine per essere consegnate a cura di ProSolidar alla Banca d'Italia per il cambio. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.